astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, colpi di fulmine che fanno impazzire le persone, sacchetti della spesa vuoti, trasportati dal vento, cani che abbaiano in tutte le lingue senza nessun accento, maestre elementari con emozioni complesse, le mani fredde, la pelle d'oca, le guance rosse, una lucertola sdraiata al sole come un essere superiore, cravatte annodate in testa come una scena del cacciatore. E non hai visto ancora niente, e non hai visto ancora niente, e non hai visto ancora niente, e non hai visto ancora niente. Eppure, pure, pure, milioni di serrature, non riesco a tenermi chiuso il cuore. Eppure, pure, pure, milioni di serrature, non riesco a saltare la corda alla mia bimba contenta, il neon dell'insegna di un motel con una lettera spenta, la volpe che ti attraversa la strada ritornando a notte fonda, la stessa domanda che torna senza bisogno che tu risponda, ladri che entrano in pieno giorno dalla porta principale, Babbo Natale ubriaco di rum in un villaggio tropicale, una ragazza che rischia la vita per poter fare una cosa normale come mostrare i capelli al sole, dire, fare, baciare. Lasciata marcire ai piedi di alberi da concerto, dove di ragazzo mio qui un giorno era tutto deserto, la goccia che cade nel tubo, il tubo che entra nel braccio, la vena che scorre riscalda il continente di ghiaccio, astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, colpi di fulmine che fanno impazzire le persone. E non hai visto